porto la mia vita a pezzi sopra un altro foglio, lontano da quello che sono, da quello che voglio. Circostanze che mi sfasciano la testa, e mentre sta città si acchitta a festa, a me non mi interessa. Luci artificiali sopra i tuoi viali, pensando che va meglio e non c'è un cazzo tra le mani. Giorni tutti uguali, necessari a questa vita per capire fino in fondo che poi il mare spinge arriva. Io che posso fare? Mi devo adattare. Va dove ti porti il male, il cuore ha smesso di parlare. Nuove prospettive ma non sai dove guardare, e mentre muoio di dolore riesci pure ad ascoltare. Ho smesso di sognare, parole sopra un foglio, in fondo è sempre uguale ma non è quello che voglio. Mi sveglierò ogni giorno con la faccia nell'inferno, contento perché poteva andare peggio. Questa è la mia vita e non c'è un cazzo di diverso. Vento freddo in questi giorni, un sole che riscalda a stento. Non c'è movimento, attorno tutto resta fermo. Troppe luci su sta giostra, meglio che alla fine scendo. Butta giù uno sguardo ogni tanto dall'alto, ti prego fallo adesso che non c'ho nessuno accanto. Sull'asfalto sento piangere i tuoi angeli, e tutti sti guerrieri stanno diventando fragili. Immagini prendono forma dentro la mia stanza, tutti sti fantasmi stanno fuori dalla porta. Tocca il cielo con un dito pure questa volta, intorno crolla tutto e solo mia la colpa. Fino a notte fonda, sveglio sul da farsi, lascio tutte le paure come sempre a 100 passi. Non voltarti, chiudi gli occhi, puoi fidarti. Devi correre più forte di quegli altri. Dietro quei palazzi c'è ancora questo cuore. Un cane resta un cane, io non trovo soluzione. Risorgo come il sole dentro tutte ste parole, che messe tutte assieme vanno a fare sta canzone. Fuori ancora piove, dimmi solo come fermare questo tempo che non cambia direzione. Spengo tutto sto rumore, sposto i miei passi altrove. Resto solo con a fianco le stesse persone. C'ho le radici nel cemento, il sangue di Frex stavolta sopra i beat. Radici nel cemento, è solo un altro inferno, è solo un altro testo che mi rende più violento. Io lo tengo dentro, anche se a volte esplode, sopra questo tempo nel silenzio del dolore. Radici nel cemento, è solo un altro inferno, è solo un altro testo che mi rende più violento. Io lo tengo dentro, anche se a volte esplode, sopra questo tempo nel silenzio del dolore.